30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Il Pentagono ha confermato ufficialmente che l'ipotesi di un incremento della presenza militare americana in Afghanistan potrebbe essere accantonata. Pochi giorni fa il generale Stanley McChrystal aveva detto che l'Afghanistan rischiava di essere perso se non ci fosse stato un importante aumento dell'impegno militare. Buonasera e benvenuti a 30 minuti in cronaca. Questa sera dunque parliamo di Afghanistan, lo facciamo proprio al termine di un mese durissimo, anche per il contingente italiano. 6 militari uccisi e 4 feriti a Kabul il 17 settembre, ancora un ferito il 23 settembre, poi un nuovo attacco giovedì 24. Insomma, eventi luttuosi, di cui peraltro potete trovare testimonianza, la testimonianza di prima mano nel nostro diario afghano sul sito radio24.it. Sono giornate durissime che hanno liberato in qualche modo dal cono d'ombra che avvolge l'Afghanistan una missione che peraltro dura ormai da 8 anni. Coinvolge 33 milioni di afghani, 63 mila militari della coalizione, 3.300 italiani e sono appunto quasi 3.000 giorni di missione in Afghanistan. In 4 short months, our nation has comforted the victims, begun to rebuild New York and the Pentagon, rallied a great coalition, captured, arrested, and rid the world of thousands of terrorists, destroyed Afghanistan's terrorist training camps, saved the people from starvation, and freed a country from brutal oppression. Così parlava il 29 gennaio del 2001 l'allora presidente degli Stati Uniti George Bush Jr. e di fatto sembrava annunciare la fine dell'operazione in Afghanistan. Dice all'inizio del suo intervento di fronte al Congresso: in 4 mesi siamo riusciti a fare molto. 4 mesi naturalmente il tempo e la distanza dall'11 settembre dagli attentati, e soprattutto dice: abbiamo distrutto i campi di addestramento dei terroristi, abbiamo salvato la popolazione dalla fame e abbiamo liberato l'Afghanistan dall'oppressione più brutale. Così appunto si parlava ormai quasi 8 anni fa. Questa sera con noi Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Buonasera Alberto. Buonasera a voi. Sembra lontanissima quella frase, insomma sembrava una missione quasi in via di soluzione. Peraltro vale forse la pena ricordare quanti erano gli americani che parteciparono alla prima ondata. Non più di 300, erano gli uomini dei corpi speciali che accompagnarono e fecero da consiglieri militari all'Alleanza del Nord, costituita prevalentemente dai tagiki, che si occupò poi sul terreno di scalzare dal potere i talebani. Ecco Alberto, tu in questi anni hai seguito sul terreno dall'Afghanistan molte fasi, anche addirittura precedenti a questi eventi, ma rimanendo appunto nel gennaio del 2002, tu avresti immaginato un processo così lungo, così coinvolgente e che oggi ci vede a riflettere appunto sull'Afghanistan sulla base di una presenza di 65.000 militari e si discute se aumentarli? Devo dire una cosa, è sempre brutto in qualche modo autocitarsi, ma l'11 settembre il giornale mi chiese un articolo e in questo articolo io dissi sì, adesso toccherà l'Afghanistan e poco dopo toccherà anche all'Iraq. E quando si è cominciato a profilare la missione in Iraq nel 2002, già questo si capiva nella primavera, ecco, poi era chiaro che l'Afghanistan sarebbe rimasto indietro rispetto alle priorità americane. L'Afghanistan nel corso del secolo passato sembra avere quasi catturato le più grandi coalizioni e gli eserciti della terra. Non dimentichiamo naturalmente quello che accadde all'Unione Sovietica, entrata con Brezhnev, uscita di fatto con vergogna anche militare, addirittura con Gorbaciov. Insomma, sembra che i tentativi di trasformare, oggi si parla di democrazia, allora di dare un modello laico al paese, con l'Afghanistan non tornino. Perché secondo te? Beh, c'è da sottolineare alcuni dati secondo me interessanti. Tu prima parlavi giustamente dei vari tentativi esterni di controllare il paese. Alla fine dell'Ottocento gli inglesi cercarono di controllare l'Afghanistan almeno temporaneamente con un esercito di 30.000 uomini, però gli afghani allora erano solo 6 o 7 milioni. L'Armata Rossa nell'89, quando si ritirò, aveva 100.000 effettivi e oggi sono 68.000 gli soldati americani, circa 40.000 quelli della NATO, e il generale McChrystal vorrebbe arrivare a 100-115.000 uomini. Insomma, da un certo punto di vista, come dice l'ambasciatore russo a Kabul, gli americani stanno già ripetendo quasi tutti i nostri errori e quelli degli eserciti precedenti, cioè il tentativo di controllare soltanto con l'esercito, con le forze armate questo paese in genere si è rivelato fallimentare. Già, i sovietici che hai ricordato appunto un momento fa, nell'85 lasciano dunque, o meglio iniziano, perché poi lasceranno nell'89, il paese a fare i conti quando hanno 100.000 uomini sul terreno. Il bilancio definitivo ufficiale, naturalmente da Mosca, di quella avventura parlò di 14.353 morti, 53.753 feriti, 469.000 soldati malati, di cui molti vittime di sindrome della personalità. Questo accadeva tanto tempo fa. Allora c'era un afgano che si offriva di fatto di rappresentare Mosca a Kabul, finì male, finì molto male, fu assassinato, la sua famiglia fuggì, ma lui non riuscì a lasciare il paese. Oggi ancora c'è un afgano che rappresenta in qualche modo il progetto, è il volto, quello di Ahmed Karzai. Karzai è apparso come una figura per bene, l'Afghanistan pulito, onesto, eccetera. Ultimamente viene messo pesantemente in discussione. Ma certamente, tra l'altro tu ricordavi prima la figura di Najibullah, che fu l'ultimo presidente filosovietico dell'Afghanistan, finì praticamente i suoi giorni dentro il compound delle Nazioni Unite, e quando nel 95 i talebani entrarono a Kabul fece una bruttissima fine perché lo impiccarono a lampione. Amir Karzai è un Pashtun ed è stato questo forse il motivo principale per cui gli americani hanno messo gli occhi su di lui per governare l'Afghanistan. Avevano bisogno del rappresentante di etnia maggioritaria, quella anche dei talebani, quella che in qualche modo ha sempre dominato il paese. Soltanto che Karzai è stato un presidente un po' dimezzato, un po' proprio perché anche è venuto a compromessi, è sceso a compromessi con i signori della guerra, con gli stessi talebani. Come hanno rivelato le ultime contrastate elezioni, anche Karzai, insomma, è un presidente debole rispetto a quello che ci vorrebbe oggi per governare questo paese. Ecco, a proposito di elezione, si parla di una vittoria con il 54% e più, di fatto una vittoria che viene congelata. L'annuncio prima slitta, insomma, ci si vergogna a dichiararla, perché? Beh, ci si vergogna a dichiararla perché in realtà è apparso abbastanza chiaro che l'affluenza al voto è stata minima, forse molto inferiore al 30% degli aventi diritto, e in molte zone si è votato in maniera altamente irregolare, se non addirittura con dei brogli molto palesi. E questo presidente Karzai oggi è talmente in discussione, talmente congelato, come dicevi tu, che ha persino rinunciato ad andare all'Assemblea delle Nazioni Unite a fare il suo discorso. Questo insomma è abbastanza sintomatico. What is our purpose in Afghanistan? What is our purpose in Afghanistan? Ora abbiamo sentito prima il presidente Bush, ora abbiamo sentito, immagino l'abbiate riconosciuto, ormai la voce è comune e quasi familiare, quella di Barack Obama, e l'interrogativo a distanza di 8 anni in qualche modo si rinnova. In questi giorni in Italia ce lo siamo chiesti naturalmente, come a volte noi tendiamo a fare nei momenti drammatici, quasi dimenticassimo, come dire, i percorsi storici e quelli che sono gli impegni del nostro paese. Ma tant'è, Barack Obama se lo chiede, e che cosa si può rispondere? Cosa si può rispondere oggi l'America, Alberto? Beh, oggi l'America è davanti a una difficile situazione. È chiaro, lo stesso Barack Obama è andato in televisione al Letterman Show a dichiarare che insomma ci sono grandissimi dubbi sull'idea del generale McChrystal di aumentare le truppe. Forse non ha del tutto torto, ci vuole ben altro che un aumento delle truppe per in qualche modo trovare una via di uscita dall'Afghanistan. Ci vuole un'azione diplomatica molto forte, bisogna fare pressioni non soltanto sui talebani, ma anche soprattutto sul Pakistan, che in fondo è stato il grande protettore di questo movimento politico e lo è tuttora. Insomma, bisogna trattare con gli stessi iraniani, che hanno una forte influenza ai confini dell'Afghanistan, che sostengono alcuni dei signori della guerra e che incidono per esempio sul comportamento dell'etnia Zara, che è di religione musulmana sciita. Insomma, sono 4-5 gli attori su cui bisogna, con cui bisogna trattare, molto scomodi, e quindi ci vuole un'azione diplomatica molto incisiva che sappia accompagnare anche quella militare e della ricostruzione. Ecco, chi è che rappresenta oggi i talebani? Voglio dire, siamo stati, abbiamo tutti forse negli occhi l'immagine del Mollah Omar che fugge sulla sua moto sul verso appunto le montagne. Allora lui era il presidente de facto di una nazione inseguita in quel caso dagli Stati Uniti e dalla coalizione. Diciamo che nessuno, posso ben dire, ne ha nostalgia, ma se vogliamo portare alle ultime conseguenze il tuo discorso, bisogna trattare con chi ha la forza. Non c'è dubbio, oggi possiamo distinguere più o meno tre filoni nel movimento talebano. Uno fa riferimento sicuramente al Mullah Omar, che è presidente di questo consiglio in esilio, dicono che sia Quetta in Afghanistan o in Pakistan o in Baluchistan, altra regione di confine del Pakistan, ma comunque ha sicuramente la possibilità di convocare alcuni dei suoi uomini più fedeli e di decidere alcune strategie, tanto è vero che emana comunicati di guerra e via discorrendo. Poi c'è una corrente talebana che è formata in gran parte dai capi tribali, che sono quelli che in qualche modo contrattano di volta in volta da che parte stare, se con Karzai e con il governo oppure con il Mullah Omar, a seconda di quelli che sono gli interventi e di quali sono i benefici che possono ricevere. E poi c'è una parte sicuramente importante e che è cresciuta nell'ultimo periodo di popolazione pashtun di queste province di confine, che è scontenta dell'occupazione militare, che non ha visto risultati dalle ricostruzioni e che si è buttata dalla parte dei talebani in qualche modo proprio per uno scontento, per l'impossibilità di trovare uno sfogo ai propri bisogni anche materiali. Torniamo subito dopo gli aggiornamenti perché in viaggio con Alberto Negri. Ripartiamo proprio da quelle zone di confine in cui ormai, insomma, sappiamo fuggono appunto i talebani e i movimenti più esposti in questo confronto contro la coalizione occidentale e dalla relazione con il vicino pakistano. 30 minuti in cronaca. Ancora buonasera da Gigi Donelli, rieccoci dunque a parlare di Afghanistan. L'Asia centrale, quasi due secoli dopo il grande gioco di Rudyard Kipling, sembra più che mai d'attualità. Intorno all'Afghanistan, nell'Afghanistan, si muovono partite importanti. Con Alberto Negri cerchiamo appunto di ricomporre anche l'immagine intorno a un conflitto che, abbiamo ricordato all'inizio, dura ormai da 8 anni, ed eravamo in qualche modo, almeno idealmente, nelle montagne tra l'Afghanistan e il Pakistan. Il rapporto tra Washington e il Pakistan ha quantomeno del paradossale, Alberto. Da un lato è, diciamo, uno strumento di controllo regionale, dall'altro è il maggiore alleato e probabilmente il maggior aiuto pratico a quelli che gli americani chiamano gli insurgent. Sì, certamente questo è un rapporto piuttosto complesso, tanto complesso che ultimamente è uscito un libro di un analista pakistano che però vive negli Stati Uniti, fa parte della cerchia di consiglieri di Obama, si chiama Tariq Ali, che questo libro ha come titolo Il duello e come sottotitolo Il Pakistan sulla traiettoria di volo degli Stati Uniti. Quasi molto simbolico da questo punto di vista questo sottotitolo. Perché? Perché il Pakistan sì dal primo momento è stato individuato ovviamente come uno dei punti chiave della questione. Nel 2001, quando si decise il bombardamento e l'occupazione dell'Afghanistan, insomma di abbattere il governo talebano, il presidente pakistano dell'epoca, il generale Musharraf, fu messo fortemente sotto pressione da parte degli Stati Uniti perché, insomma, accettasse questa alleanza. Un'alleanza che lui accettò torto collo, con un discorso alla nazione in cui disse chiaramente: io lo devo fare perché altrimenti ne va della sicurezza stessa e dell'unità del nostro paese. Quindi gli afghani, i pakistani sono chiamati in prima persona, soprattutto i servizi segreti, quelli dell'ISI, che sono stati coloro che hanno finanziato, appoggiato il movimento dei talebani. Perché poi il Pakistan continua a sostenere questo movimento? Perché in fondo Islamabad, i generali continuano a ritenere che prima o poi gli Stati Uniti se ne andranno dall'Afghanistan e il Pakistan tornerà o dovrebbe tornare ad avere un governo amico a Kabul. E quale amico migliore se non i vecchi talebani? Ecco qual è il gioco che c'è oggi in questione tra Washington e Islamabad. E noi torniamo agli Stati Uniti. I think that this whole notion of hearts and minds should be taken out of the American lexicon. We'll never win the hearts and minds of the Afghan people, but with the right strategies we can win their trust and confidence. Ecco, il professor Thomas Johnson è un politologo che insegna in università, peraltro la US Naval University, una struttura appunto legata all'apparato militare, insomma, rappresenta delle riflessioni anche, se vogliamo, ben inserite in quello che è il mainstream del pensiero americano. Dice una cosa anche piuttosto semplice, che oggi ci può apparire ovvia: è inutile pensare di conquistare le menti e i cuori degli afghani, cosa che abbiamo, la retorica negli anni passati ha cercato di fare, però un accordo si può raggiungere, cioè una trattativa si può ottenere. E sembra quasi richiamare quella dichiarazione, che è freschissima, del presidente Obama, che dice sostanzialmente la democrazia non si può esportare. Insomma, l'America è cambiata, l'America è molto cambiata in questi anni. A tuo avviso, Alberto Negri, è pronta a gestire in maniera completamente diversa, oserei dire poco americana, la complessità del dossier Afghanistan? Ma potrebbe farlo se ritornasse sui suoi passi in qualche modo. Cioè, a metà degli anni 90, quando ci fu l'ascesa del regime talebano, in realtà gli Stati Uniti cercarono di avere un rapporto con i talebani, un rapporto che loro ritenevano fosse possibile avere anche attraverso la mediazione dei pakistani e dei sauditi stessi, che erano interessati per esempio attraverso la UNOCAL, una compagnia petrolifera, a far passare un gasdotto e una pipeline dalle repubbliche dell'Asia Sovietica, dell'ex Unione Sovietica, attraverso il Pakistan fino all'India. Ebbene, in quel momento ci fu il tentativo di negoziare con i talebani. In realtà bisogna tornare a farlo con i talebani e con i loro sponsor pakistani. Certo, c'è da rinunciare a parecchio di quello che l'Occidente pensava di poter fare. Per esempio? Molto, molto chiaro, per esempio, quello che sta avvenendo in queste settimane, per esempio al vaglio del Parlamento a Kabul, una nuova legge che sembra ispirata direttamente dal Mullah Omar, prevede il divieto della musica nei luoghi pubblici, l'obbligo del velo per le donne, la proibizione per un uomo di stringere la mano a una donna se non è una parente, si pensa di insediare addirittura un ministero sul tipo di quello iraniano per la prevenzione del vizio. Sono previste multe e carcere per chi non rispetterà queste leggi, e non è detto che si torni prima o poi addirittura anche alle punizioni corporali. Insomma, questo Afghanistan sta facendo dei grandissimi passi indietro verso quello che era un po' l'emirato del Mullah Omar. Rinunciare dunque a quelle che sono state, come dire, si può serenamente dire anche legittimamente, quelle che noi riteniamo degli obiettivi da perseguire, il ruolo della donna che ci impressiona e che ci fa rabbrividire perché è così lontano ormai dalla nostra cultura, insomma, rinunciare a molto. In cambio sembra, come dire, si potrebbe raggiungere un qualche tipo di accordo. Ancora una volta si ritorna un po' al conflitto inevitabile tra diritti, doveri, coscienza ed elemento pratico. E a proposito di quest'ultimo aspetto, c'è già invece, come accade sempre quando purtroppo muoiono dei militari in servizio, chi tira fuori il termine exit strategy. So che tu hai un vero e proprio, come dire, fastidio epidermico quando di fronte a queste situazioni emerge questa espressione, l'exit strategy. Beh, sì, un po' ce l'ho, perché tornando tra l'altro al discorso precedente che si faceva a proposito dei compromessi che l'Occidente deve fare nei confronti delle società musulmane, basta ricordare quello che noi facciamo tutti i giorni nei confronti di paesi come l'Arabia Saudita, integralisti da capo a piedi, e che però vengono annoverati tra gli alleati dell'Occidente. Certo, i compromessi li sappiamo fare benissimo. I quando compromessi li sappiamo fare come perfettamente. Tutti, poi l'exit strategy, uscire da un paese come l'Afghanistan, dopo averci schierato migliaia di truppe, dopo averci investito moltissimo dal punto di vista anche economico e anche nel tentativo di questa ricostruzione, è accettare in qualche modo una sconfitta. Insomma, non si può andare via con la coda tra le gambe lasciando il trionfo a El Mulà Omar e ai suoi amici. Non è molto saggio, probabilmente. C'è il rischio che in realtà non si lascia neppure dietro di noi un regime consolidato, ma una situazione di caos, una situazione grigia, insomma, un'altra area grigia del mondo, come è stata la Somalia, come sono stati altri paesi del mondo abbandonati dall'Occidente, che poi continuano a costituire ancora oggi gravissimi problemi per tutta la comunità internazionale. Ecco, nella tua esperienza, che posso dire di molti anni in Afghanistan e nella regione, puoi dire in conclusione, cioè si avverte un elemento di stabilizzazione? Cioè la descrizione che fai dell'Afghanistan è di un paese, come dire, che alterna guerra all'anarchia e alla guerra civile. Esistono dei semi, dei germogli di stabilità che magari la cronaca cruda ci permette, non ci permette di vedere? Ma dunque, io penso che purtroppo noi dobbiamo lavorare, come dire, con quello che abbiamo a disposizione. Sì, noi possiamo pensare, per esempio, di cercare di avere magari una situazione economica migliore, per esempio il fatto di avere tanti disoccupati, di avere un'economia asfittica, è sicuramente un fattore di alta instabilità, non solo per l'Afghanistan, ma anche per il Pakistan, per alcune delle regioni vicine che sono più instabili. Questo sicuramente, però bisogna lavorare con quello che si ha. E che cosa abbiamo noi davanti? Abbiamo una società tradizionale, una società caratterizzata dal tribalismo, caratterizzata anche in qualche modo dall'integralismo islamico. Bisogna cercare di utilizzare questi strumenti nella direzione in cui possono servire, cioè quella della stabilizzazione, e a questo punto naturalmente bisogna forse anche rinunciare ad alcuni dei sogni che si erano fatti quando nel 2001 venne abbattuto il regime dei talebani. Grazie allora ad Alberto Negri, e naturalmente vi ricordo radio24.it per risentire il diario afghano e le trasmissioni, tutte le trasmissioni di Radio 24. Grazie naturalmente anche a Fabio Cantadori, che ha seguito questa trasmissione in regia. A tutti voi l'augurio di un ottimo fine settimana.